Siamo qui, noi di Canale 8, come sempre, per presentarvi la rubrica di interviste più seguita di tutto il Sistema Solare. Uno sguardo sul futuro. Trasmetteremo stasera l'intervista con Janet Vasfili. A cura di Giovanna Fagioletti. Cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo per ascoltare quello che ha da dirci questa simpatica signorina Vasfiglia. Dovete sapere che i nostri scienziati sociali e anche i nostri fisici affermano che dovranno rivedere un gran numero di teorie alla luce dell'informazione portateci dal nostro esploratore del futuro. A quel che pare, questo non è il nostro futuro, ma solo un possibile futuro. Signorina Vasfiglia, forse lei potrà spiegarci meglio le diverse possibilità del futuro. Appunto di questo stavamo conversando poco fa. È tutto su giornali. Signorina Vasfiglia, se lei potesse per piacere illustrare l'argomento per i telespettatori. Che sono stupidi, non sanno leggere. Come i gentili telespettatori probabilmente sapranno, da almeno 8 secoli non ci sono più maschi su Wile Away. Questa società governata solo da donne ha naturalmente richiamato un grande interesse dall'apparizione la settimana scorsa della loro rappresentante e prima ambasciatrice, cioè la signora seduta al mio fianco. Signorina Vasfiglia, ci può dire come reagirà secondo lei la vostra società di Wile Away all'apparizione di uomini terrestri? Intendo naturalmente uomini della Terra. Intendo naturalmente uomini della Terra attuale, dopo un isolamento durato 800 anni. Veramente sono 900. E poi quali uomini? E quali uomini? Beh, immagino che vi aspetterete una visita dei nostri uomini a Wile Away. E perché mai? Per ragioni di conoscenza e di mercato, per contatti culturali. Temo che lei mi stia rendendo la vita un po' difficile, signorina Vasfiglia. Quando la peste di cui parla uccise tutti i maschi di Wile Away, avete sentito la mancanza? Non ci sono stati traumatici mutamenti nelle famiglie? Non è dovuto cambiare tutto quanto il vostro sistema di vita? Certamente, la gente sente sempre la mancanza di qualcosa a cui è stata abituata da tempo. Sì, ne sentimmo la mancanza. C'è persino una serie di vocaboli tipo lui, uomo e simili che era stata abolita. Poi la seconda generazione cominciò a servirsi di queste parole in segno di sfida, lei sa come sono i giovani. La terza generazione non se ne serve che per questioni di buona educazione e non ne parla. E quelli della quarta generazione, cosa vuole che gliene importi più? E chi se ne ricorda più ora? Ma voglio dire, indubbiamente, ecco... Abbia pazienza un momento, forse io non riesco bene a capire quello che lei vuole dire. Non si deve dimenticare che la lingua in cui stiamo parlando adesso la conosco in modo molto dilettantesco solo perché è un mio vecchio hobby, del resto molto preso in giro sul mio pianeta. Non so esprimermi quanto bene vorrei. Noi parliamo, come voi sapete, una specie di pan russo che nemmeno i russi però potrebbero capire. Sarebbe come il middle English per voi, solo viceversa. Middle English. Capisco, ma per tornare al punto... Sì? Non volete che gli uomini tornino su Wile Away? Perché? Perché? Un sesso rappresenta la metà della specie, signorina Vasfiglia. Desiderate bandire il sesso da Wiley Way? Ecco come, non capisco. Ho chiesto se avete intenzioni di bandire il sesso su Wiley Way. Scusate, io sono sposata, io ho due figlie, ma di che diamine state parlando? Io, noi ebbene conosciamo quella forma sociale che chiamate matrimonio, signorina Vasfiglia. Sappiamo che ritenete le vostre figlie discendenza di entrambe le parti. E allora? E che avete anche delle tribù, così veramente chiamo non io si anche chiamano se, tribù. Oh, mi scusi, mi dispiace, anche se la traduzione non è esatta. Ma non mi riferisco all'istituzione economica e nemmeno alle questioni affettive. Sto parlando di rapporti sessuali. Ah, ho capito. Ma lei sta parlando di coito. Sì. Naturalmente c'è anche da noi. Ah? Sì, adesso le spiego. Tra le partner c'è un momento in cui... Perché trovarvi improvvisamente e sconsideratamente senza mutande di ricambio? Ma perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Con Lavanda, la mutanda che si cambia, vi troverete a vostro agio nelle situazioni più scabrose. Con Lavanda non c'è tema, spicca lei come un diadema. Oh, eccoci qua di nuovo per la nostra intervista. Cara signorina Vasfiglia, come portano i capelli le donne di Wiley Way? Se li tagliano con le valve di mollusco! Dovrebbe essere fatto, io ritengo sempre una discussione, magari adesso a freddo, però un po' più globale del convegno, perché insomma non mi va di sentire mezze frasi di...